finalmente in diretta nuovamente con Silvia Albertazzi, Stefano Calanchi e soprattutto non solo libri a colazione ma le Madeleine che mi sono arrivate in regalo. Buongiorno e grazie Silvia, grazie Stefano. Buongiorno a tutte e a tutti, buongiorno a te. Allora, io credevo che fossero diverse, dico la verità. Ricordate però intanto, per chi non è stato presente la volta scorsa, sono state protagoniste per il quiz che ha permesso ascoltatrici e ascoltatori di avere la lettura in premio, che ci sarà anche oggi, magari parleremo d'altro, però io non sapevo cosa fossero le Madeleine. Credevo fossero diverse. Io quel tipo di dolce lo chiamavo in maniera molto primaria plum cake, però non è esattamente, in effetti è un po' più piccolo. Bellissima la confezione, grazie per questo regalo pasquale anticipato, ma sono certo che avremo anche regali, beh c'è il quiz ovviamente per voi con le nuove pubblicazioni. Io ho portato, secondo me, attenzione, qui lo dico e qui lo nego, quello che sarà il premio Pellegrino 2024. Non credo ci sarà un altro libro così bello, per cui aprite bene le orecchie con il voltiamo pagina di oggi. Iniziamo con Silvia, però. Vabbè, siamo solo, non è neanche finito marzo, dobbiamo arrivare a dicembre. Però questo spinge, come si dice. Vai Silvia. Vabbè, io ho portato un libro molto importante, diciamo, se non bello, a me è piaciuto molto. Dopo la tua presentazione chiaramente tutto diventa minore. Ma dai, non volevo dire questo, no. È il mio entusiasmo. Però ho portato un libro che, ecco, che mi ha entusiasmata, devo dire. Cosa bene. Che per me non è così, frequente come per te. Esatto, è vero, giusto. Vai. Dunque, il libro è Come ho ucciso Margaret Thatcher di Anthony Cartwright per le edizioni Allegre. Adesso abbiamo il notaio, ha guardato Stefano, guardato come senso di pronto soccorso. No, sto perché, dicendo bene? Perché io mentre venivamo qua in macchina ho anche googlato come si pronuncia e già non me lo ricordo più. Ho capito. Vabbè. Vai. Comunque, si tratta di un libro, dicevo, importante perché ci dà una pittura, un affresco degli anni Ottanta in Inghilterra, anzi nella classe operaia inglese, molto, molto, molto necessario direi, ma anche difficile da trovare, fatto così bene, diciamo. Bisogna dire che Anthony Cartwright è forse l'ultimo e l'unico in questo momento erede di quella scuola di narrazione inglese molto molto prestigioso e molto importante, che va sotto il nome di working class fiction, quindi autori che parlano di classi operaia e di realtà, diciamo così, proletarie, senza essere necessariamente neorealisti, senza essere tragici o quant'altro. Mi lancio in una, anche il nostro amico William Wall a tratti potrebbe essere. No, non c'entra niente. No, non okay, c'entra chiedevo, niente. Chiedevo. Bene. Qui parte il fatto che William Wall è irlandese, sì, se non okay, sbaglio. Però ne facevo una scrittura in lingua inglese, ecco. Sì, cioè, William Wall è uno scrittore realista, se vogliamo, però qui proprio si tratta bene di andare alle radici di quella che è una realtà inglese di cui si parla pochissimo e che ha avuto dei momenti storici molto importanti, come per esempio la working class fiction tornò in auge negli anni tardi anni 50 con Alan Sillito e anche con qualcuno dei giovani arrabbiati, degli Angry Young Men. Comunque Cartwright in questo momento è l'unico che lavora su queste cose in maniera programmatica, diciamo. Si è fatto conoscere con un libro sugli hooligans, poi ha fatto questo, il primo lavoro che sia uscito sulle conseguenze della Brexit, proprio all'indomani della Brexit, fece questo romanzo chiamato Il Taglio, molto molto duro ma anche molto molto attento, azzeccato nell'analizzare il perché si è arrivati alla Brexit, se vogliamo, attraverso delle vite di piccoli personaggi del tutto marginali nella storia sociale dell'Inghilterra. E adesso con questo come ho ucciso Mrs. Margaret Thatcher ci presenta appunto la vita, come le politiche thatcheriane abbiano influito sulla vita di una famiglia di operaia da quando lei è stata eletta nel 79 fino all'89, quando ha smesso, cioè, il decennio Thatcher, come le sue politiche hanno influito in senso negativo, chiaramente, non solo sull'economia di queste persone, perché poi il discorso attorno a cui ruota a un certo punto la vicenda è la paura della disoccupazione e la chiusura delle miniere, la chiusura delle industrie pesanti, eccetera, ma anche proprio a livello emotivo, a livello quotidiano, come sia cambiata, come questo governo, questo modo di governare della Thatcher abbia cambiato il modo di essere di queste persone. E il tutto è filtrato, raccontato attraverso gli occhi di un bambino. Un bambino che, quando viene eletta la Thatcher, se non ricordo male, ha 8-9 anni, e che poi seguiamo nell'arco di questo decennio. È interessante notare l'idea del bambino, che della storia vista attraverso gli occhi del bambino, non è nuova, chiaramente, anzi, alcuni tra i più interessanti romanzi storici, se chiamiamoli così, degli anni 80-90, soprattutto in area postcoloniale, sono narrati da bambini. Uno per tutti, tre quarti di quel capolavoro che è I figli della mezzanotte di Salman Rushdie è narrato da un bambino di 10 anni. Però quello che è abbastanza nuovo, direi, in Cartwright, è che accanto alla narrazione del bambino c'è la stessa narrazione vista dall'adulto. Cioè, abbiamo delle parti in corsivo che sono anche al presente, che sono narrate dal bambino, è quello che vive il bambino in quel momento. Poi abbiamo le parti in tondo, che invece sono i ricordi dell'adulto che ripensa a quello che è successo e che lo vede chiaramente con occhio adulto. Per cui nelle parti, le parti in corsivo a volte sono anche divertenti, perché c'è tutta l'ingenuità del bambino che non coglie precisamente quello che è successo, mentre le parti in tondo sono un tantino più meditate e sono appunto quello che che ricorda il bambino diventato grande oggi con il senno di poi. Dicevo, è un libro che vale la pena conoscere, penso, perché io non avevo ancora letto sono stati scritti molti libri sul periodo Thatcher, chiaramente, molti libri soprattutto a posteriori, diciamo, non mentre succedeva, ricordo solo I versi satanici di Salman Rushdie, che era così puntuale nello stigmatizzare le politiche di Thatcher contro gli immigrati. Però invece sono stati scritti nel corso del tempo molti lavori ambientati negli anni 80, però quasi nessuno nella classe operaia, quasi nessuno in maniera così puntuale. Quello che può andare un pochino più vicino è Jonathan Coe, però i protagonisti di Jonathan Coe sono di piccolissima borghesia. Qui invece siamo proprio tra gli operai. L'ambientazione è sempre quella, cioè la Black Country, che sarebbe quella zona a nord e a ovest di Birmingham, che una volta era la zona industriale per eccellenza dell'Inghilterra, dove c'erano tutte le miniere, c'erano le industrie pesanti, che poi poco a poco la Thatcher ha smantellato. Io avrei un altro parallelismo, ma mi astengo dal farlo. Perché? No, aspettiamo lo stacco musicale, in maniera così da codardo te lo propongo fuori onda, e poi dopo tu mi dirai se invece questo parallelismo è più azzeccato. A parte che ho paura anche di bruciarti il quiz con questo parallelismo. No, il quiz non credo che tu me lo bruci, perché è un quiz un po' strano. Un po' particolare, ok. Meglio. Allora, il parallelismo è cinematograficamente con Ken Loach. Sì, certo, senza dubbio. Beh, meno male, sono andato più sul sicuro qua. Sì, qui vai a colpo sicuro, direi. Sono andato più a colpo sicuro. Sì. Niente, per quanto riguarda la playlist, naturalmente abbiamo scoperto che esiste tutta un'enorme produzione musicale sulla Thatcher. Okay. Ecco, abbiamo scelto due pezzi che descrivono la realtà inglese di quel periodo, cioè quanto stavano male gli inglesi, soprattutto nella classe operaia in quel periodo, e gli altri due invece sono più proprio sulla Thatcher. Quindi cominciamo con i Waterboys, Old England, che è una delle pitture più laceranti dell'Inghilterra degli anni Ottanta. Buon ascolto, a tra poco. Per la colonna sonora, la playlist è portata da Stefano e Silvia coi Waterboys, This Is The Sea il titolo del disco e Old England il brano che stiamo ancora ascoltando. Suonato meravigliosamente, tra l'altro, con questo sassofono, un incipit. A proposito di incipit, non vogliamo svelare, ma fuori onda mi hai detto alcune parti iniziali del libro che mi hanno affascinato molto, e ho trovato poi, per quanto riguarda la questione sociale, tu con un'attinenza all'Inghilterra thatcheriana, per quanto riguarda il mio libro andremo oltre oceano invece, ma pensi sia il caso di far conoscere anche al nostro pubblico questa partenza particolare del libro? Sì, certo, il libro inizia con è il giorno delle elezioni di Mrs. Thatcher e il nonno di questo bambino dà un fracasso di botte a suo fratello, proprio li devono separare e poi non gli parlerà mai più perché ha imparato che il fratello ha votato Thatcher. E il bambino è molto preoccupato perché dice lui aveva sentito, orecchiato in casa che anche suo padre ha votato Thatcher. Adesso prende un fracasso di botte, dice, anche il papà. Cioè adesso finirà che lui è molto affezionato al nonno, dice, finirà qui che il nonno litiga anche con mio padre e dopo io non posso più vedere il nonno. Quindi già è un inizio che sì, ridiamo per questi aspetti che ovviamente hanno un che di particolare, però certamente un momento molto controverso. E poi parte anche con un discorso della Thatcher, il bambino stesso comincia a non capirci niente, però intanto soprattutto a ecco, possiamo intanto lanciare il quiz, allora, se vogliamo, ha qualche difficoltà a situare questo discorso della Thatcher, perché la Thatcher nel suo discorso di elezione il 4 maggio del 79 fa riferimento in maniera del tutto inattesa, lei è protestante, no? A un famoso santo italiano. E dice, nel mio proposito vorrebbe essere comportarmi come San Tizio Caio. È famoso, punto di domanda. Ecco, chi è questo santo a cui fa riferimento la Thatcher nel suo discorso di insediamento? Noi lo vogliamo sapere da voi al 333-180-9494. Intanto però ho visto un libro misterioso. Sì, non metto in palio questo libro, ma un libro misterioso. Buongiorno, non so la risposta, ma ne approfitto per dire che il 5, 6, 7 aprile ci sarà il Festival di Letteratura Working Class al Presidio ex GKN a Campi Bisenzio. Laura, grazie Laura per l'informazione. Però sono arrivate diverse risposte. Oh, qua, Silvia, ormai li abbiamo tirati giù tutti dal paradiso, ce ne sono diversi. Allora, iniziamo. Mamma mia, quanti, ma ognuno diverso, eh? Bene, bene. Allora, Andrea Supercampione dice San Francesco. Ok, allora sì, sia per motivi di tempo che per precisione, il premio questa volta va ad Andrea. Grazie Andrea, uno su uno è arrivato, one shot, San Francesco, a quanto pare la risposta esatta. Però io voglio citare anche gli altri. Allora, è arrivato un Sant'Agostino, è arrivato un San Benedetto, addirittura un San Colombano e... complimenti, adesso guardiamo. Allora, Sant'Agostino non era italiano. È vero, grande Silvia, lo stavo per aggiungere io, sì, e poi magari ora et labora. Ma la cosa buffa è che, ti dicevo, no, il bambino resta un po' interdetto, perché lei dice, ogni capitolo è preceduto da un'epigrafe che è tratta da un discorso della Thatcher, no? E allora, quando la Thatcher dice, adesso non mi ricordo, dove odio voglio portare amore, così come San Francesco, il bambino si stupisce perché lei dice come San Francesco d'Assisi, no? Allora chi dice, ma dov'è Assisi? In quale parte d'Inghilterra è Assisi? Sì, è al centro. Se no, è in Italia. E lui dice, ma no, ma come? La chiesa di San Francesco è nel centro del mio paese. Cioè, io ho sempre pensato che San Francesco fosse di Daldi, che è il paesino dove abita lui. Beh, non si è offeso San Francesco, no. Si è offeso di più per essere stato preso. Decisamente. Sì. Allora, Eugenio, nel dubbio, aggiunge, è la mia compagna che me lo suggerisce, San Colombano. Beh, buongiorno a tutte e a tutti. Siccome non so la risposta, gioco in casa e rispondo San Petronio. Grande, ok, accettatissimo. Grande Yuri. Ecco, guarda, ho trovato la citazione, te la leggo perché merita. Certo. Che lei disse nel discorso: vorrei solo ricordare alcune parole di San Francesco d'Assisi che credo siano particolarmente appropriate alla nostra situazione. Dov'è discordia che io porti l'unione? Dov'è errore che io porti la verità? dove è dubbio che io porti la fede, dove c'è disperazione che io porti la speranza. Decisamente tutte cose che lei ha fatto. E allora io mi collego al messaggio che è arrivato con risposta esatta. Immagino il nostro patrono nazionale San Francesco aggiunge: terribile confronto. Grazie Michele, comunque veramente stanno arrivando, è arrivato anche Sant'Agostino, così che non vogliamo trascurare tra tutto questo All Star Game di Santi. Ringrazio Maria Carla che dà la risposta esatta, ma che è arrivata leggermente in ritardo. Sto dimenticando qualche santo, vediamo velocemente. No, mi pare di averli citati tutti, quelli almeno portati da voi ascoltatrici e ascoltatori del Breakfast Club. Voltiamo pagina di oggi. Mi stavo sbagliando, ho letto un messaggio precedente: Naporso Capo. E la risposta: no, non è ancora stato fatto santo. Naporso Capo. Siamo vicini allo stacco pubblicitario, per cui io ti chiedo titolo, casa editrice che la puoi pronunciare come più ti aggrade, autore. Anthony Cartwright, Come ho ucciso Margaret Thatcher, Allegre. Devo dire, ne approfitto per ringraziare la Nicoletta della libreria Trame, perché è stata lei che me l'ha messo da parte. Ha detto: questo è un libro che senza dubbio ti piacerà, e in effetti ci aveva preso. Sì, e io ringrazio Sergio, figurati se lui non aggiunge santa pazienza. Anche io aggiungo santa loc, l'amore possa malò. Beh certo, è un tuo vicino, era un tuo vicino, adesso sei a Bologna e Lino scrive: buongiorno, io avrei votato, è diventata un'elezione di San, io avrei votato per San Crispino. No, meritato da Andrea questa volta. Facciamo partire il secondo pezzo? Eccolo qua, poi andiamo in pubblicità. Il grande cantore dell'anti-Thatcher per eccellenza, cioè Billy Bragg. E torniamo dopo la pubblicità, Breakfast Club, voltiamo pagina, tra poco. And one voice rules the nation, just because they're top of the pile, doesn't mean their vision is the clearest. Of the people falling on deaf ears, now politicians all become careerists. They must declare their interests, but not their company cars. Is there more to a seat in parliament than sitting on your ass? And the best of all this bad bunch is shouting to be heard above the sound of ideologies clashing. Outside the patient millions put them into power, expect a little more back for their taxes. Like school books, beds in hospitals, and peace in our bloody time, all they get is old men grinding axes, who've built their private fortunes on the things they can rely. The courts, the secret handshake, the stock exchange and the old school tie. For God and Queen and country, all things they justify, above the sound of ideologies clashing. Go God bless the civil service, the nation's saving grace. While we expect democracy, they're laughing in our face. And although our cries get louder, the laughter gets louder still. But the sound of ideologies clashing, but the sound of ideologies, but the sound of ideologies, but the sound of ideologies clashing. People have a wonderful dream. Margaret Guillotine. Cause people like you make me feel so tired. When will you die? When will you die? When will you die? When will you die? When will you die? And people like you make me feel so old inside. Please die. Unkind people, do not shelter this dream, make it real. Thatcher, che con un mio ex coinquilino ogni volta che ascoltavamo, cioè capitava di ascoltare quel discorso della Thatcher in cui citava San Francesco di Assisi, noi avevamo aggiunto la frase, ironicamente, e when there is Falklands, cioè le Falklands, may I bring the Royal Air Force, perché lei alle Falklands, o Malvinas meglio, portò la Royal Air Force. Saluti a tutti da, del Breakfast Club. Ciao, non mandate questo vocale, leggetelo e basta, please, se volete. Eh no, tu non sai cosa rischi, Stefano. Noi siamo contro ogni tipo di censura, anzi noi diffondiamo, per cui ti ringraziamo, mi sto anche emozionando, guarda, per quello che tu hai portato al Breakfast Club, e la colonna sonora è ideale. No, stavo dicendo, siamo contro ogni tipo di censura, in certo senso, mandando il vocale hai censurato Morrissey, che stava dicendo. Oh, che stava dicendo. Pesantezza, mamma mia, dai, vai, allora. Che stava dicendo appunto che aveva sognato Margaret sulla ghigliottina, sì. E che continuava a domandare ma quando è che muori. Ok, beh, la musica è così dolce, vedi? È quello il bello. Playlist a tema, ovviamente, che procederà. Comunque, sono le 8:36 minuti, allora vi parlo. Faccio un volo al di là dell'Atlantico e vi presento, anzi, arrivando sulle coste californiane, quindi la Pacific Coast, uno scrittore. Di lui leggete tutto, ribadisco, di lui leggete tutto. Percival Everett. Ho iniziato a seguirlo da Nutrimenti, oggi per La nave di Teseo. Di lui posso citarvi Deserto americano, Non sono Sidney Poitier, Quanto blu, gli alberi. È stato con telefono finalista al Booker Prize e vincitore di diversi premi assolutamente importanti. Lui è un intellettuale afroamericano, un intellettuale che ha sempre dato denuncia e critica che in questo caso vede argomentazione che nel cuore mi sta una lotta agli stereotipi. Percival Everett con Cancellazione. Tra l'altro, qui chiedo aiuto a chi è più appassionato e competente di cinema di me, vedo l'adesivo in copertina, potevano non metterlo, sai che non amo né le cinturine neanche gli adesivi. American Fiction, premio Oscar per la miglior sceneggiatura non originale. Tu hai visto il film? Anzi, voi avete visto sì. Il film? Tra l'altro il film è uno di quei film strani, nel senso che prodotto da Netflix non è mai andato nei cinema, si vede solo sulla piattaforma Netflix, che è una cosa che schifezza. È una schifezza, sì. È una schifezza. Ed è un bel film, veramente. Sì. Io meno male. Non ho letto il libro, ma il film a me è piaciuto molto. Bene, il libro è chiaramente un'argomentazione alla quale sono molto sensibile. Percival Everett già con gli altri lavori ha riportato l'attenzione su una cancellazione dell'identità attraverso questo restringimento che viene indicare nell'adottare termini, sigle, stereotipi e quant'altro in tutte le situazioni che possiamo vivere, tra orientamento sessuale, tra ovviamente questioni di genere, tra anche quello che riguarda la razza, il colore della pelle, l'orientamento religioso. Ecco, la cancellazione e questi stereotipi portano Percival Everett a una scrittura molto lucida, molto forte, ma di una bellezza veramente molto intensa, da motivo di riflessione. Allora, si parla di una... Intanto è bello perché è un libro nel libro, e già questo mi affascina molto, al di là del sentimento e dell'impegno che ho per questi contenuti. Il protagonista è Thelonious Ellison, ma già dal nome lui si fa chiamare Monk, quindi Thelonious Monk, la situazione ne fa citazione Percival Everett, come nel titolo di Non sono Sidney Poitier, a questi personaggi, no? Beh, questo scrittore, dire che è arrivato a un punto fermo per quanto riguarda la creatività è veramente un eufemismo, anzi è in gravissima difficoltà. Non ha classico caso di stasi creativa, anche perché lui fa riferimenti molto colti, molto intensi, addirittura filosofia greca, meditazione di parallelismo con la società attuale afroamericana e non solo, dei saggi che per un periodo hanno avuto anche una certa attenzione dal pubblico e non solo un pubblico specializzato. Poi arriva a un blocco incredibile. Questo blocco è, diciamo così, acuito dal fatto che una giovane scrittrice con un best seller, per così dire best seller, venuta dal nulla, lei è una ragazza afroamericana, Vita nel ghetto, è il lavoro, appunto, il titolo anche abbastanza immediato, no? È in testa alle classifiche in tutte le trasmissioni televisive. Lui questo lavoro lo vede ammirato come il nuovo grande romanzo afroamericano. E lui è messo da parte. Lui, oltre ad avere questo blocco, che è addirittura, così come vi ho detto, peggiorato dalla situazione che sta trovando nello stereotipo di racconto con Vita nel ghetto, è combattuto. Oltretutto lui ha una vita che non è esattamente lineare, anche per quanto riguarda rapporti personali in famiglia. La mamma si ammala di Alzheimer, le sorelle e il resto della famiglia, lui deve tornare a Washington, vive in California, quindi anche questo è motivo di allontanamento per quanto riguarda il percorso della sua carriera. E oltretutto lui viene da un'estrazione borghese, quindi afroamericano, parente, anzi in famiglia sono tutti medici, e non si aspettano di certo, voglio dire, uno scrittore che possa portare contenuti riguardanti povertà, soprusi sociali e quant'altro, no? Ed è una parodia, se vogliamo, a tratti anche di una vita portata alla cancellazione, ma lui avrà un'idea. E questa idea la racconterò a breve, prima lo stacco musicale. Abbiamo questo autore che mi trovo sempre per dare continuità alla presentazione precedente. Lo vuoi presentare, Silvia? Sì, è un pezzo di Marco Paolini con I Mercanti di Liquore, che si chiama Mrs. Thatcher, tratto da un disco che è tutto sulle malefatte del sistema economico introdotto dalla Thatcher. words are candid and tough, and they cannot have been easy to hear. But they're also a clear invitation to a new beginning and a new relationship that will be rooted in trust. Mrs. Thatcher dice che non esiste la società. Mrs. Thatcher dice che Signora Thatcher, sorrida. Ha un bel sorriso. Lei ha la bocca di Jean Moreau e gli occhi di Caligola, signora. Dopo di lei la politica non conta più niente. C'è solo economia. Solo economia. Dopo la Thatcher tutto era in vendita, hanno scritto i giornali. Come ha fatto, signora? C'erano regole, per quel che ne so io, di monopoli. Non so. Uno punta a Viale dei Giardini, Parco della Vittoria, poi mette case, alberghi, e allora le cose gli vanno mica male. Se però ti casca la stazione Nord, l'acqua potabile, la corrente elettrica, non ci puoi mettere le case. Al massimo tiri su le 20.000 lire per uscire di prigione senza passare dal via. Come? Lei ha messo le case sull'acqua potabile, l'energia elettrica e la stazione Nord. Signora, non si può, è vietato dal regolamento. Lei si è mangiata il foglietto del regolamento. E com'è chiamato questa dieta, signora? The regulation. Cosa è? Sregolamento. Ah, beh. 8:45 minuti, beh, sono stato premiato a voler lasciare la tua playlist, è molto bello il lavoro, la recitazione di Marco Paolini. Allora riprendiamo però la presentazione riguardante cancellazione. Intanto ringrazio Sergio che scrive: beh, è inutile fare le playlist con cura quando un conduttore ci sovrappone i vocali dei suoi amici proprio quando il testo svela tutto. Bah, è inaccettabile. Bravo Sergio, ciò. Bravo. Hai Sergio visto? Grazie, hai trovato l'approvazione di Silvia. Allora, intanto ricordate quello che ho detto in precedenza: cancellazione. Percy Pal Everett, un grandissimo, in crisi creativa il protagonista scrittore Thelonious Ellison vuole essere chiamato Monk. Lui afroamericano, vive in California, ha problemi familiari che si aggiungono a questa crisi creativa resa ancora più acuta dal fatto che una giovane scrittrice vola al suo posto in testa alle classifiche con un libro che a suo dire è abbastanza banale e immediato: Vita nel ghetto. Beh, se il lavoro è un disastro, la vita privata non va meglio. Come vi ho detto, problemi familiari, il resto della famiglia, medici, intellettuali, laureati, pieni di lavoro, problemi familiari con la malattia della madre, l'eredità del padre che insomma mette qualche altro problemino per quanto riguarda i percorsi di Thelonious, detto Monk ma in realtà Ellison, e compone di getto allora lui, come per dispetto, la peggiore narrativa di genere, quindi sul ghetto. detto vita afroamericana e quant'altro. Ma il libro lo scrive con uno pseudonimo, dovrebbe rimanere uno sfogo da tenere nel cassetto, lo fa come per dispetto, ma quando il suo agente lo invia alle case editrici, il mondo dell'editoria impazzisce per il nuovo fenomeno letterario. Al suo alter ego vengono offerti soldi, fama e successo. Ora Monk ha un altro inatteso problema da affrontare. Cancellazione Percival Everett, edizioni Nave di Teseo di Percival Everett, leggete tutto, non smentisce la sua grande capacità letteraria e anche per quanto riguarda l'attinenza alla situazione attuale. Con Cancellazione si aggiunge un grande libro alla lista dei lavori di Percival Everett. Allora Silvia, non so se sono stato chiaro nella presentazione, ma ti chiedo, ci sono attinenze con il film? Il film è uguale, ovviamente. È uguale, ok, uguale. Cioè, quindi non... ho presentato, diciamo, in maniera chiara. Sì, l'hai presentata anche troppo, perché praticamente hai svelato quasi tutto. Sì, ma è la lettura di Percival Everett che è bella, non è tanto il discorso, è cosa succede intorno a tutto ciò. Questo è lo scheletro, ma c'è tanta ciccia letteraria intorno a questo. Come reagisce davanti a tutto ciò, a queste contraddizioni, le riflessioni che si può fare leggendo a queste diverse, discutibili contraddizioni, alle lotte, come si siano capovolti determinati paradigmi? Sono questi i motivi di conversazione che abbiamo dentro di noi e con l'autore a proposito di tale lavoro. Quindi, se volete rivolgere questa conversazione, seppur a distanza o con voi stessi, in maniera assolutamente introspettiva, io mi rifaccio a un film. Pensa un po', un film molto più immediato, parla di basket, ovviamente. Ah, ripeto, Thelonious Ellison dice: sono afroamericano e sono un pessimo giocatore di basket, no? Ribaltiamo lo stereotipo, i bianchi. In un film, mi pare, di inizio anni 90 e sempre relativi alla pallacanestro, cosa non potevano, cosa non sapevano, cosa non sono in grado di fare gli uomini bianchi, le persone bianche? White man can't, e poi voi aggiungete il resto nel titolo del film per avere cancellazione di Percival Everett. White man can't, puntini, puntini, puntini, cosa sono incapaci di fare gli uomini bianchi, sempre relativi alla pallacanestro. Lo vuoi in inglese o in italiano? Uguale. Paola T dà risposta esatta. White man can jump. Grazie Andrea, grazie Dino, avete indovinato al contempo ma leggermente in ritardo rispetto a Paola T. Chiedo i ringraziamenti anche, anzi mando i ringraziamenti, scusate, anche vediamo se riesco a recuperare. Trovo il nome, non trovo il nome. Jarno da Calderar, grande Jarno. Bene, abbiamo terminato, siamo anche, tanto per cambiare, leggermente in ritardo con il Voltiamo Pagina. Ricordo che in California, subito dopo l'uscita del film, tutti i ragazzi bianchi, chiaramente grandi atleti, mettevano la maglietta con la scritta White Man Can Jump e nei playground di Venus Beach tiravano degli schiaccioni, bam bam, schiacciavano saltando da centrocampo. Oramai, contro ogni stereotipo di genere, cancellazione, e non solo di genere ma ovunque e comunque, Percival Everett per la Nave di Teseo, un libro secondo me meraviglioso. Abbiamo terminato, Silvia, abbiamo il video. Ah certo, il video, dove trovate anche la playlist in fondo, guardatelo fino in fondo perché c'è anche la playlist. E domani, come sempre, domani uno speciale capillare per quanto riguarda il lungo 800 a Bologna nell'arte. Per oggi è veramente tutto per il Voltiamo Pagina, appuntamento a mercoledì prossimo. Grazie Silvia. Grazie a te. Ciao, dai, saluti a tutti. Ti perdono, dai, perché mi hai portato le Madeleine. Dai.